Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti e 18 secondi, oggi è 15 febbraio, buongiorno da Daniele Biacchesi, è la seconda edizione di Italia in controluce, la cronaca, i problemi e le eccellenze italiane, secondo Radio 24. Dove può arrivare l'inchiesta sulla corruzione aperta con l'arresto del consigliere comunale di Milano Milko Pennisi? È tornata la stagione di Mani Pulite oppure quello di Pennisi è un caso isolato? Raffaella Calandra. In principio furono anonime buste bianche, poi ci sono state le valigette passate di mano nei cantieri o le cartelle lasciate nei bagni, ora anche i pacchetti di sigaretta o i libri con sorpresa. La principale differenza tra ieri e oggi, scherzano gli investigatori, è che ora le immagini sono molto più nitide e le telecamere molto più piccole. In un bottone, ad esempio, era nascosta quella che ha ripreso la prima mazzetta consegnata dall'imprenditore Mario Basso a Milko Pennisi, ex presidente della commissione urbanistica di Milano. Per il resto, denunciano i magistrati, la sostanza non è cambiata rispetto a 18 anni fa, quando iniziava Mani Pulite. Ora è solo più difficile scoprire i reati, ammette Corrado Carnevali, procuratore aggiunto di Milano, una delle memorie storiche del palazzo. Io ritengo che le cose non siano molto cambiate dal passato, anche se i numeri dei procedimenti aperti non possono essere più quelli che avevano caratterizzato la stagione di Mani Pulite, perché diversa era la notizia criminis rispetto a quella attuale, che non vede chiamate in correità ma è rimessa a quello che può accadere. Per cui, per l'esperienza che ho avuto, ritengo che le cose continuino ad andare nel senso in cui sono andate negli anni 90, anche se è più difficile certamente scoprire i reati e anche se a mia avviso è mutata il profitto del reato, che è molto più ridotto. 34 sono stati nell'ultimo anno gli indagati per concussione nel distretto di Milano, 86 per corruzione, 10 in più rispetto all'anno prima, ma 30 in meno rispetto al 2007 e 40 al confronto dei dati dell'anno giudiziario 2004-2005. Cifre che però, concordano gli inquirenti, sono solo la punta di un iceberg ben più profondo e lo dimostrano anche, sorride Carnevali, le modalità con cui le tangenti tuttora vengono riscosse. Il soggetto si vende anche per poche decine di euro. Quello che dicevo prima sul fatto che il numero dei reati continua ad essere uguale a quello del passato lo si desume dalle concrete modalità con le quali avviene ad esempio lo scambio appunto della mazzetta corruttiva, che lascia intendere una consuetudine. Non è un caso che anche nell'ultimo episodio le modalità con le quali si è cercato nel momento in cui si è capito di essere sotto osservazione e liberato della moneta. Questa è una costante che abbiamo già visto in episodi che hanno visto coinvolte altri pubblici ufficiali in passato. Nel water cercò di buttare la mazzetta appena incassata Mario Chiesa, il direttore del Pio Albergo Trivulzio. A consegnargliela Luca Magni, l'imprenditore che l'aveva denunciato. Il lunedì 17 febbraio mi sono andato in caserma alla mattina, hanno fotocopiato i soldi, hanno preparato la telecamera che avevo nella valigetta. Sono rimasto fuori dal suo ufficio a aspettare mezz'ora finché sono entrato, gli ho dato la busta con i soldi. Gli ho detto che erano solo 7 e non 14. Che lui mi ha detto, senza fare una piega, quando mi porta gli altri. A quel punto prendo, esco, gli altri carabinieri entravano gridando dov'è la presidenza, bloccando tutto. Così 18 anni fa iniziava il ciclone Mani Pulite in una Milano da bere. Ora la città è annebbiata dalla crisi, ma quella stagione di Tangentopoli, ripetono in tanti, compresi molti imprenditori, non è mai finita, anche se ad ogni arresto si ripete il solito ritornello del caso isolato. Nel 2009 lo stesso Chiesa è tornato a San Vittore in un'inchiesta sui rifiuti. 1.200.000 euro ha versato invece Rosanna Gariboldi, ex assessore di Pavia, patteggiando una pena di 2 anni per riciclaggio. Spot su TV private e tangenti hanno portato in carcere anche l'assessore regionale Giancarlo Prosperini, praticamente in diretta a TV. Perché le agenzie stanno scrivendo che tu in questo momento sei arrestato? Adesso non posso più parlare. Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto. Okay. No, Non sei stato arrestato? No, al momento no. Procuratore, non ha lasciato insegnamenti Mani Pulite? Evidentemente la gente è convinta intanto, prima di tutto, di farla franca. Non appena vengono in luce episodi siffatti, subito si cerca di dire che probabilmente è stata la magistratura che ha sbagliato, salvo poi dopo vedere che in realtà questa gente più delle volte se ne esce dal procedimento penale patteggiando, e se anche non è una condanna è tuttavia è una missione di responsabilità alla quale però non viene dato rilievo. La gente vede che le conseguenze forse non sono così catastrofiche da costituire una remora a comportamenti analoghi, insomma. E c'è chi ora propone di espellere dalle varie organizzazioni chi paga mazzette, come avviene già per chi paga il pizzo. Italia in controluce. Parliamo dunque di via Padova, di immigrazione, di questioni multietniche, di quartieri multietnici, ma da un'altra prospettiva. Perché in via Padova da 4 anni, esattamente nel 2006, va avanti il lavoro di un'orchestra multietnica composta, pensate, da 16 elementi, provenienti dall'Italia, dall'Estonia, Perù, Cile, Ucraina, Burkina Faso, Marocco, Serbia e Cuba. È un esempio di integrazione, la stessa cosa era avvenuta anche a Roma per l'orchestra di Piazza Vittorio, un laboratorio di convivenza, una musica linguaggio che vince su tutto, anche sulla violenza. Marco Roverato è il bassista dell'orchestra di Via Padova, lo ha intervistato per Italia in Controluce, Adriana Fracchia. L'esperienza che abbiamo noi con l'orchestra è esclusivamente positiva, in quanto le persone con cui lavoriamo sono degli abitanti con cui siamo riusciti a instaurare un bellissimo rapporto, sia di tipo umano che di tipo lavorativo. Ma come vi siete trovati? È nato un po' musicalmente la cosa, nel senso eravamo un normale gruppo di amici che suonava, tutti italiani, ma chiaramente suonavamo della musica che non era esclusivamente nell'ambito, diciamo, del patrimonio culturale italiano e basta, per cui è stata una naturale conseguenza quella di iniziare ad allargare, finché poi non ci è venuta in mente questa idea di fare un'orchestra multietnica, perché peraltro si stavano sviluppando in altre città, soprattutto a cominciare dalla Francia, che poi ha dato anche il via all'orchestra di Piazza Vittorio in Italia, a Roma. Dopo si è, su questa scia abbiamo iniziato a creare questa orchestra. Noi poi, al di là del lato politico o sociale della cosa, prima di tutti noi vogliamo sottolineare che siamo dei musicisti. Cioè, credo che il nostro veicolo è la musica ha potenzialità veramente infinite, per cui stiamo cercando di giocare questa carta qua, in poche parole. Italia in controluce. E alle 13:41 minuti e 18 secondi, da 60 anni. Il Festival di Sanremo che accompagna nel bene e nel male la storia d'Italia nei momenti bui, nei momenti di boom, nei momenti di rivoluzione. E proprio dei giorni in cui cambiava il mondo e la musica parliamo con Marta Cagnola, è un inossidabile protagonista dell'epoca. L'Italia si fermava per Sanremo e alla fine degli anni 60 le signore con la pelliccia e i signori impettiti cominciavano a provare i primi shock. La musica cambiava. Shell, Nike, Bobby sono stati a scuola insieme. Poi formano il complesso Roaring Twenties di Londra. Sono i primi capelloni della TV italiana. Si affermano in Italia a Sanremo. È lì che suonano Bisogna saper perdere. Bisognava saper perdere, infatti non vinsero, ma con quel festival contribuirono a cambiare la musica italiana, i Rooks e Shell Shapiro. L'impressione allora comunque importante era che tu facevi Sanremo e Sanremo era comunque davvero una fotografia della musica italiana realmente, e che il sabato sera avevi 25 milioni di persone davanti al televisore. Mamma mia, se sbagliavi Sanremo ti giocavi la carriera. Sembrano dandies che abbiano abbandonato le bombette per i capelloni ben pettinati da un parrucchiere della City. Fanno impazzire le teenager e i ragazzi che passano il tempo davanti ai jukebox. In fondo sono solo il simbolo del nuovo romanticismo. Natura e coraggio, impeto ed assalto di suoni e di luce. Sicuramente la musica in quegli anni lì è cambiata, non c'è dubbio. Un po' per noi sicuramente, un po' per, ma un po' per tutti gli influssi che stavano arrivando comunque dall'estero, e anche alcune persone che erano in anticipo anche qui in Italia. Adesso io sono sicuro che noi abbiamo aperto la strada per una quantità di gruppi, quello di sicuro. Eravamo un punto di riferimento, ma ancora oggi, se chiedi a Red Canyon dei Pooh, cioè i Pooh facevano come riferimento Beatles, Rolling Stones e qui in Italia Rocks, quindi avevamo sicuramente un ruolo di apristrada, apripista in qualche modo. Gli altri tutti sconfitti in un festival senza gloria, e i Rocks, mania dei giovanissimi, bisogna saper perdere, concetto condiviso da Lucio Dalla. La musica è cambiata perché c'era lo spazio che permetteva la musica a cambiare la società, perché il denominatore comune per tutti i ragazzi del mondo in quel momento lì era la musica. Chi arrivava prima, chi dopo, però la canzone americana che arrivava magari con 3 mesi di ritardo o 6 mesi, ma non ha importanza. Il denominatore comune era l'unica cosa che tutto il mondo condivideva, era la musica. Bisogna saper perdere. Il primo Sanremo dei Rocks fu quello drammatico del 1967. L'Italia subì il trauma della morte di Luigi Tenco. Il 67, cioè eravamo, tra l'altro noi stavamo facendo Bisogna saper perdere, in coppia con Dalla. Luigi era in coppia con Dalida, con Ciao Amore. È stato un anno molto complicato. Devo dirti la verità, Marta, che per uno che non parlava magnificamente bene l'italiano o che lo capiva non magnificamente bene, probabilmente molte sfumature ci sono, li abbiamo mancati, insomma. Ho trovato anche lì che il mondo dello spettacolo davanti a un telecamera comincia a piangere disperatamente anche quando 2 minuti prima non piangeva, insomma. Ipocrisia? Beh, diciamo di sì, va. 13:45 minuti, 43 secondi. Daniele Biacchesi ha condotto Italia in conto luce, l'edizione delle 13:30. Tutte le puntate sono disponibili su www.radio24.it e in podcast, vi ricordo. Le vostre domande le potete inserire sulla bacheca del gruppo di Facebook Radio 24 Italia in conto luce. A risentirci domani, 6:30.